E allora 20 e 12 minuti primi, bentrovate e bentrovati all'ascolto. Inizia fra pochissimo, cioè dopo questa brevissima presentazione, il mini pimer di oggi, la nostra maxi trasmissione. Abbiamo una ospite in studio e parliamo di un film dal titolo Lesbiana, una rivoluzione parallela. Lesbienne, c'est devenu mon pays, mon lieu d'appartenance. Un territoire composé d'îlots reliés entre eux au fil des idées, des amours, des affinités politiques, au-delà des frontières. On se sentait citoyenne du monde en tant que lesbienne, probablement pour la première fois de l'histoire. Lesbiana. Divenne il mio paese, un spazio a cui appartenevo, un territorio oltre i confini, fatto di isole legate fra loro da amore, idee e affinità politiche. Ci sentivamo cittadine del mondo in quanto lesbiche, probabilmente per la prima volta della storia. E allora, sì, isole legate tra loro dall'amore, e abbiamo qui in studio con noi Myriam Fougère, l'autrice, la regista del film Lesbiana, una rivoluzione parallela. E, iniziamo subito, Myriam, a chiederti come è nato questo film, da quale idea, che percorso, che storia ha questo film? Oui, merci Myriam d'être venue et de présenter ton film ici à Rome. Et on va commencer avec une première demande, question. Quelle est l'histoire de ce film, le parcours qui t'a amené à le faire? J'ai voulu faire ce film parce que j'ai vécu ce mouvement incroyable des lesbiennes des années 80. Alors... J'ai réalisé à un moment donné qu'on n'en parlait plus du tout, puis que beaucoup de personnes ne savaient même pas que ça avait existé. Ho voluto fare questo film perché ho vissuto questo movimento delle lesbiche degli anni 80 e poi mi sono accorta che nessuno ne parlavamo più, e dunque ho pensato importante di farlo. So I went and I did... In French. Oh, excusez. Alors, je suis partie. Puis j'ai fait un peu le même voyage que j'avais fait quand j'étais jeune, vers 25 ans. Je suis partie de Montréal pour aller à la rencontre des lesbiennes. Alors, je suis allée au sud de Montréal, ce qui est les États-Unis, et j'ai fait la côte Est, et à travers des groupes de lesbiennes, des terres, des restaurants, des salles d'exposition, des maisons privées. E allora ho rifatto il viaggio che più o meno avevo fatto quando avevo 25 anni, e sono dunque partita da Montreal in Quebec, e poi sono scesa sulla côte ovest e sono andata a incontrare i gruppi di lesbiche, i ristoranti, le case private. Et les librairies de femmes, parce qu'il y avait beaucoup de librairies dans ce temps-là. Les librairie di donne, perché c'erano molte librerie in questo momento. Et dans ce temps-là, je faisais de la sculpture pour les lesbiennes. Alors, je vendais un peu mes sculptures en voyageant, et puis alors je rencontrais toutes sortes de lesbiennes. J'ai décidé de retourner les retrouver pour faire le film et voir où est-ce qu'elles en étaient. In questo momento là, dunque, quando avevo 25 anni, io facevo la scultrice, e dunque viaggiavo facendo delle sculture per le lesbiche, e andavo di là, e mi è piaciuto l'idea di ritornare per ritrovare queste lesbiche e capire dove stanno adesso. Quindi è un film costruito sulle interviste a queste lesbiche che hai rincontrato dopo diversi anni, e diciamo escono fuori tante testimonianze di un percorso. Donc c'est un film qui est basé sur des interviews et donc des témoignages de tant de femmes qui racontent leur parcours. Le loro storie anche. Leurs histoires. E insieme a queste le riflessioni che poi accomunano un po' tutte, o insomma comunque che sì, che accomunano... Et les réflexions qui sont sorties de toute leur vie ensemble. Infatti nel film ci sono, attraverso le testimonianze di queste lesbiche, ci sono comunque sono, si parla anche dei diversi argomenti che stavano affrontati a questo momento. A ce moment-là, non, c'est dans le film, on parle à travers les témoignages des arguments, des discussions qu'il y avait. Oui, oui, il y en avait beaucoup. C'erano tante. E prendiamole un po' così tutti, enfin non tutti, perché infatti c'è quelli che ci sono, quelli che non ci sono, ma comunque alcuni che sono molto interessanti. Per esempio uno molto, cioè, che arriva molto all'inizio è come le donne si pensavano e erano in movimento. Comment elles étaient en mouvement personnellement aussi. C'è per esempio la testimonianza di una che dice l'energia, la creatività, la venuta al mondo di una metà del mondo e dunque di tutte quelle donne che non solo cominciavano a parlare ma, cosa per me ancora più importante, cominciavano a pensarci. Yes, oui. Tu veux raconter un peu... ton impression sur ces changements personnels qui avaient lieu à ce moment-là? Vuoi parlare un po' di questi cambiamenti mm-hmm. personali che c'erano dentro di voi a questo momento? Comme Nicole Brossard dit aussi, toutes nos vies se transformaient. On questionnait tout, on remettait tout en question, on voulait changer le monde pour en faire un monde comment à notre à la mesure du rêve qu'on avait, c'est-à-dire bon, essayer d'avoir des relations égalitaires, de partager nos avoirs, de pouvoir s'épanouir aussi, vraiment parler. E infatti a un certo momento c'è Nicole Brossard che dice tutte le nostre vite erano in trasformazione. Sì, lei cioè, e dunque è vero che noi volevamo trasformarci, trasformare il mondo, creare un altro mondo, pensare a un altro mondo con molte cose, per esempio come avere relazioni egualitarie, come condividere i nostri soldi, come vivere insieme. E aussi ce qui est devenu important c'était de créer des espaces où on pouvait se retrouver pour créer ce monde qu'on voulait créer, c'est-à-dire on a eu besoin de créer des espaces aussi bien physiques qu'idéologiques où on pourrait apprendre ensemble à vivre. E anche che volevamo anche di costruire spazi fisici, non solo spazi ideologici o teorici, ma anche dei spazi in cui comunque cioè, vivevamo insieme e si concentravamo alla vita insieme. Alors pour faire le film, j'ai été visiter quelques terres de femmes, puis j'ai interviewé des femmes qui avaient fait partie de plusieurs groupes d'espace ou en Floride, en Alabama, en Arizona, au Vermont, il y en a eu beaucoup. Et per fare questo, au Québec. Sono andata a visitare, sono andata sulle terre di donne, Alabama, Vermont, Arizona, Québec. Et je voulais voir où en étaient ces lesbiennes que j'avais rencontrées. Ah, ho dimenticato anche di anche incontrare delle lesbiche che sono state in diversi gruppi. Bon, je sais. E, per esempio, c'è una cosa che comunque loro parlano del fatto di diventare lesbiche. che è stato comunque per tante una cosa molto importante, come per molte anche una cosa molto dolorosa. E per esempio, il passaggio di devenir lesbienne, che è stato très important per beaucoup e che è stato aussi douloureux per certaine. Et le passage, ben, commence, l'histoire de mon film commence au passage du féminisme au lesbianisme, quand les lesbiennes ont décidé de un peu se séparer du féminisme. Certaines ont décidé de se séparer, mais c'est-à-dire de se demander qu'est-ce qu'elles voulaient en tant que lesbiennes. Parce que. Bon, oui, il mio film inizia quando comunque c'è una separazione, quando alcune lesbiche hanno deciso di separarsi del movimento femminista. Parce que aussi c'était difficile avec les féministes au moment où les lesbiennes ont dit oui, mais nous aussi on est opprimés en tant que lesbiennes, on veut qu'on en tienne compte dans le mouvement féministe. Les féministes ont dit « Ah oui, mais pas tout de suite, c'est difficile, déjà on se fait traiter de lesbienne. » Alors les lesbiennes ont dit « Non, ça va pas. » Perché per le lesbiche diventava molto più abbastanza difficile di affermarsi come lesbiche dentro il movimento femminista. Le femministe non volevano porre l'argomento adesso, era troppo presto, anche avevano paura di essere viste come lesbiche, e dunque per le lesbiche era quasi un obbligo di uscire o di vederci un po'. Ma io penso che c'è una conseguenza che le donne si sono messe insieme e poi sono diventate lesbiche e poi hanno avuto bisogno di essere tra lesbiche. Je pense qu'il y avait un passage avant. Elles sont devenues lesbiennes et puis après elles se sont trouvées. Oui, mais beaucoup étaient lesbiennes depuis longtemps et luttaient dans le mouvement des femmes, luttaient pour l'avortement, pour des causes qui ne les concernaient plus finalement. Sì, ma non solo, perché anche tante erano lesbiche da molto tempo e lottevano dentro il movimento femminista, per esempio le lotte per l'aborto e anche tante cose che finalmente alla fine come non erano più... Non li riguardavano. Non li riguardavano. Alors, les lesbiennes ont voulu s'occuper de ce qui les intéressait, ce qui les concernait plus, puis, mais ça a été très, très difficile, ça a été très douloureux, puis... Mais bon, il s'est créé différents groupes de lesbiennes avec différentes idéologies, puis on pensait pas du tout toutes pareilles non plus. Sì, ma è stato anche doloroso perché ci sono stati tanti gruppi di lesbiche che non pensavano tutte la stessa cosa, non è che era omogeneo. Sì, c'è questo passaggio, per esempio, poi mi dici di chi è perché non l'ho segnato. Ne ero attratta come teoria. Il culmine nel movimento di liberazione delle donne era liberarti dallo sguardo maschile, dall'approvazione maschile, dell'opinione maschile su di te. Un po' come girare le spalle a tutto questo e concentrarsi sulle donne, sul costruire una cultura di donne, lavorare per donne e vivere con donne. C'è questo passaggio là, oui. Où, tu l'hai riconosciuto? Oui, oui, oui, je l'ai riconosciuto. E dunque questo è un aspetto importante di testimonianza che si trova nel documentario. Un altro aspetto importante sono le differenze che stavano tra le lesbiche. Un altro aspetto importante del film qui traite, alors pas de toutes les différences, mais par exemple le racisme. Oui, le racisme, Jackie Anderson en parle bien en disant que ça a pris du temps pour les femmes blanches de reconnaître les différences auxquelles faisaient face les femmes noires, aux États-Unis surtout, mais que les femmes qui ont le mieux compris sont celles qui se sont rapprochées. C'est en se rapprochant socialement qu'on finit par se comprendre, c'est en se côtoyant. Et puis, il y en a d'autres qui parlent du fait d'être juive, d'être blanche. Et donc, par exemple, Jackie Anderson parle molto bene del fatto che le lesbiche nere avevano altre problematiche e che comunque le lesbiche bianche hanno messo del tempo prima di capire questa cosa, e chi l'ha capito prima erano quelle che si sono avvicinate. La cito, lei dice: essere lesbica non è la stessa esperienza per tutte noi, e nella mia cultura essere una lesbica afroamericana significa avere una cultura, e le nostre questioni non hanno molto a che vedere con il rossetto o le scarpe splendide, sono questioni che riguardano la nostra situazione, non siamo comunque tutti uguali e non abbiamo la stessa politica. Ci sono anche nel film la questione delle lesbiche ebrei, c'è anche la classe anche che cioè, è detto e parlato. Anche una cosa che mi è piaciuto: non siamo comunque tutte uguali nella politica, ci è voluto del tempo prima che le lesbiche bianche cominciassero a capirlo, e penso che la comprensione maggiore sta venuta dalle lesbiche bianche che sono venute a stretto contatto, così l'hanno visto. E poi l'intervista di Sarah Hoogland anche su questa cosa è molto interessante, perché vabbè, cita Audre Lorde e quasi quasi ci dà una soluzione o ci dà comunque un messaggio forte. Le donne di colore sfidavano le bianche su una grande questione. Mi piace spiegarlo come Maria Lugones, che mi colpì dicendo che tendiamo a organizzarci sulle cose in comune, quando ciò di cui avremo bisogno per unirci sono le differenze. Audre Lorde fece emergere fin dal suo primo lavoro che la differenza non è pericolosa, la differenza è quello che rende tutto possibile per noi. Ça, c'est une leçon qui serait encore d'actualité, je crois. Et questo è una lezione che è ancora di attualità. Vuoi dire qualcosa altro su queste cose delle differenze nel movimento? Tu veux dire quelque chose d'autre sur ces différences dans le mouvement, de comment c'était affronté? J'ai voulu montrer différentes que chaque lesbienne qui vivait dans un endroit différent faisait face à des problèmes différents un peu selon elle, selon l'endroit où elle était. Puis comme nous à Montréal, on a un peu le problème des relations entre les Françaises, les lesbiennes françaises et les lesbiennes anglophones, ce qui est tout un autre problème. Je sais pas si tu vas être capable de traduire. Ho voluto fare vedere che in diversi luoghi i problemi erano diversi, cioè come per esempio noi a Montreal il problema era soprattutto tra inglese e francofoni. Alors chaque communauté a ses problèmes d'actualité ou qui ont un lien avec le lieu où elles sont. E dunque ogni gruppo, ogni posto ha le sue problematiche che sta in legame con il posto in cui sono. Allora, facciamo un stacco musicale e volevo dunque mandiamo Feron, ma tu ci dici due parole su Feron, se anche poi parliamo della musica nel movimento. J'envoie une chanson de Feron. Tu veux dire deux mots sur Feron? Oui. C'est une chanteuse canadienne que j'aime beaucoup, qui a beaucoup accompagné toutes mes peines d'amour. È una cantante canadese che mi piace tanto e che ha molto accompagnato le mie pene d'amore. Pene d'amore. Et c'est une grande poète. Je l'aime beaucoup. Una grande poetessa e mi piace tanto. He said some men would be warriors and some men would be kings and some men would be owners of land and other man-made things. False love as the eternal flame would move some to think in rings, and gold would be our power and other foolish things. But you who dream of liberty must not yourselves be fooled. Before you get the plea for freedom, you have agreed to being ruled. If the body stays a shackle, then the mind remains a chain that'll link you to a destiny whereby all good souls are slain. And it won't take long. It won't take too long at all. It won't take long. And you may say, I don't know what you are talking about. And I say, you mean to tell me that's all? A desert wandereth, one is knowing and two are scared. They say time is in the river, but the river is not there. Dry in spirit, dry in body, who will lend themselves to death. And in grief one weeps into his hands and drinks his bitter tears. Cause it don't take long. About it, I say, you mean to tell me that's all? And as I stand before you now, I am hopeful in my rage. You know, love has finally called for me. I will not wilt upon its stage, but still smaller than my nightmare now, do I print upon the page? To live inside its walls, to identify the keys, cause it takes so long. Why does it take so long? But it takes so long. And you may say, I don't care what you're talking about. And I say, are you trying to say it don't belong? Mother's daughter, and I've seen myself in you. It's this blessing that I follow now, and so I must speak true. I dreamed of thousands dying, it was you and you and you. And while the city sleeps so quietly, there is something we must do. And it won't take long. It won't take too long at all. It won't take long. They say, I don't want to know what you're talking about, and it makes me want to say, so long. Cause grief shall come in measures, only grief alone will know. And you'll see it on your family, on your own face it will grow. And they'll try to keep you hungry, and then they'll tell you to eat snow. You know, pride can be a moving thing if you learn the strength of no. It won't take long. It won't take too long at all. It won't take long. And you may say, I don't think this has anything to do with me. But did you ever think you could be wrong? Coming, human strength will fill the streets of every city on our planet. Hear the sound of angry feet. The business freezed up in the harbor. The kings will pull upon their hair, and the banks will shudder to a halt, and the artists will be there. Cause it won't take long. It won't take too long at all. It won't take long. I don't know how to be a part of that. It makes me want to say, don't you want to see yourself that strong? The division between the peoples who disappear that on their day. And the oceans lie between us. Lifted candles light the way. Half will join their hands by moonlight. The rest under... It won't take long. Siamo in mini primeur, martedì autogestito da Lesbiche Femministe. Abbiamo con noi Myriam Fougère e abbiamo appena ascoltato Ferron, perché stiamo parlando delle lesbiche nelle anni 80, Stati Uniti e Canada e Quebec. E dunque in questa canzone Ferron, che dice? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit ça prendra plus très longtemps. Vous allez voir, on va se lever tout ensemble et on va se battre. On va faire la révolution dans l'amour avec tous ceux qui voudront. Dice qualcosa come non prenderà più molto tempo. Ci alzeremo tutti insieme, faremo la rivoluzione nell'amore. Mais elle dit aussi... tu me dis, mais de quoi tu parles? Je ne sais pas de quoi tu parles. Et moi, je te dis, allez, viens-t'en. Et dice anche, mais tu, de che cosa mi parli? Ma de che cosa mi parli? Et l'altra risponde, sì, vieni. Viens faire la révolution. Tu sais de quoi je parle. Vieni a fare la rivoluzione, tu lo sai bene da che cosa sto parlando. Tutto questo per introdurre che la musica è stato anche un motore molto importante nel movimento. Oui, la musique a été très importante. Au début, il y avait Alex Dobkin qui a été très importante pour nous aux États-Unis, mais je sais que vous en aviez ici aussi probablement. Certo. Elle a commencé à... All'inizio c'era per esempio Alex Dobkin che è stata molto importante per noi negli Stati Uniti, ma anche voi ne avete, questo è sicuro. Et puis il y a... Après, il y a plein d'autres lesbiennes qui ont voulu écrire des chansons sur ce qu'elles vivaient, sur leur vie, sur leurs relations. Ci sono tante lesbiche che hanno voluto scrivere canzoni sulla loro vita, le loro vissuti, le loro relazioni. Et pour être endisqué, il a fallu qu'ils se créent des maisons de disques de femmes. Alors il y a eu Olivia Records, puis d'autres maisons de disques. Et per comunque essere prodotte, hanno aperto delle case editrici. C'è stato Olivia Records, Olivia, okay. Et poi anche altre. Puis il y avait beaucoup de concerts, c'est là beaucoup où on se retrouvait dans les concerts de femmes ou de lesbiennes. La musique était très très importante. Et ci sono stati anche, c'erano anche molti concerti e noi ci ritrovavamo molte le donne e le lesbiche intorno a questi concerti. Puis il y a Lynn Daniels aussi qui le dit dans le film, pour ça... a fallu qu'il y en ait qui apprennent à faire la technique, l'audio, monter des systèmes de son. Souvent, c'était des concerts en plein air, dehors, avec des gros systèmes. Alors, a fallu tout apprendre. Per esempio, nel film c'è Lynn Daniels che racconta che per fare questo, comunque, alcune hanno dovuto imparare a usare l'amplificatore, a montare dei sistemi. Le cose tecniche di amplificatori. Sì, perché spesso c'erano dei concerti all'aperto e dunque con grandi sistemi per l'audio, per l'amplificazione. E moi j'ai appris à faire du vidéo en filmant les concerts. Io ho imparato a fare delle video filmando i concerti. Perché nel film ci sono immagini di repertorio che tu hai girato anni prima, bellissime, di questi concerti e raduni. Oui, dans le film il y a des images des concerts que tu as filmé à ce moment-là. Oui. C'è anche quella che racconta, sì, eravamo tutti ai concerti e poi ci ritrovavamo al bar e nessuno voleva ritornare a casa. Ascoltiamo una, si chiama Pam Hall. Allora lei racconta, dunque lei per esempio parla del razzismo, no? Perché comunque tutte parlavano delle loro vite. Io vivo nel delta del Mississippi, forse non parlo come voi, non canto come voi, ma credetemi, io penso che amo come voi. La mia madre era un modello di lesbiche per me. Sì, sono la seconda generazione di lesbiche. una quinta generazione. Oh sì, sì, sì, la mia bisnonna anche. Pam Hall was very sexy for me. Yes, I live in the Delta of Mississippi. I might not talk like you, I might not sing like you, but you better believe I can love like you. And there's one thing my mama taught me as I was growing up. She's a strong lesbian role model for me. Yes, I'm a second generation lesbian. A fifth generation dyke. E allora torniamo sorprendentemente in diretta. Sì, era un po' corto, vabbè. Era un po' corto. È un audio preso dal film. E allora sì, parliamo di musica, ma non solo la musica era importante, anche tutte le arti. Miriam era una scultrice e andiamo a leggere, sempre tratto dal film Lesbiana, una rivoluzione parallela, la testimonianza di Suzanne Boisvert. Che dice: ero interessata al lavoro delle artiste americane della body art. Ci offrirono uno spazio permanente alla Guildford School, un progetto molto importante nella comunità. All'epoca, come artista, pensavo si dovesse passare dal corpo per far scaturire l'immaginario. Era davvero gioioso, un'esplosione del corpo gioioso, probabilmente in risposta ad una divisione storica dai nostri corpi di cui abbiamo avuto esperienza per così tanto tempo. Il corpo lesbico era vietato, il corpo delle donne era vietato. Eravamo le figlie delle femministe che dicevano che il personale era politico, quindi se vuoi cambiare il mondo devi prima cambiare te stessa. Bella questa, bella. Molto bella. Molto bello, sì, sì. Molto bello. Anche l'immagine del suo, della sua danza con Andrés Michel è molto bella, sì, sì, una bella performance, molto sensuale. Mm. Oh, yeah, yeah, oui. Ma che tipo di relazione ce l'hanno tra le artiste e le politiche, per esempio? Quel genere di relazione il y avait entre les artistes et les politiques? Oui. Les politiques auraient voulu que les artistes soient toutes des politiques. moi, je me considérais comme une lesbienne radicale, mais les radicales me considéraient comme une culturale. Et alors, les politiques avrebbero voluto que toutes les artistes si definiscono comme politiques, comme politiques. Io, cioè, mi definisco come lesbica radicale, ma loro, le politiche, dicevano di me che ero culturale. Mais la culture était très forte au Québec, mais ailleurs, mais au Québec beaucoup, la poésie, la danse, le théâtre, la musique, les improvisations, il y avait toutes sortes de spectacles extraordinaires, et les politiques venaient. la culture, elle a molto, vabbè, era molto importante, soprattutto in Quebec, c'era molto poesia, teatro, performance, danse. E le politiche venivano, certo. Sì. Il faut pas oublier les livres aussi. Les livres, sì, questo anche. Sì, perché comunque poi lo dicono, cioè molte lo dicono, era, cioè, una cosa che in cui tutti i livelli hanno toccati, no? Dai personali alle cose più collettive, ma anche tutti i mezzi di produzione, di espressioni. E per esempio una cosa molto importante sono stati i libri. Come Julia Penelope parla di aver scritto molto d'antologie, allora elle aimait rassembler plein de visioni differenti di differenti lesbienne dans le même livre pour montrer comment on pense tout différemment, mais comment pour donner plusieurs côtés d'un même problème ou d'une même comment ça se dit, problématique. Voilà. Ou ou juste d'un fait, c'est-à-dire, bon, il y avait l'anthologie. Sì, come per esempio Giulia Penelope racconta come a lei gli piaceva di fare delle antologie in cui lei invitava molte lesbiche di diversi, cioè, diversi campi a parlare, a scrivere su o delle problematiche ma anche su dei fatti. Oui, comme coming out, les séparatistes, toutes sortes d'anthologies. Comme sur le coming out, sur le séparatisme, ma tante diversi tipi di antologia. C'è stato anche il libro importante di For Lesbian Only de Sarah Hoogland. Oui, mais aussi il faut dire qu'on avait des maisons d'édition pour les publier ces livres-là, ça n'existe plus beaucoup non plus. C'erano anche tante case editrici per pubblicare questi libri che adesso non ci sono più così tante. Comme Marilyn Fry parle de comment c'était important pour elle parce que ce qu'elle écrivait était trop philosophique pour les féministes, trop radical pour les si. Bon, finalement, quand il y a eu une revue qui a commencé, Sinister Wisdom, elle a pu publier là puis avoir des conversations, pouvoir discuter de ce qu'elle écrivait avec d'autres lesbiennes. Per esempio c'è Marilyn Fry che lei racconta come alcune cose c'erano che lei voleva scrivere erano troppo filosofiche per le femministe, dice anche troppo femministe per le riviste, per l'Accademia, e che comunque quando è uscita, è nata questa rivista che si chiama Sinister Wisdom. Che significa? Che sta... Sinister vuol dire gauche, ma aussi le savoir pas maléfique, ma sinistre. Sinistre, anche il sapere malefico, e wisdom? Wisdom, c'est la sagesse. La sapienza, sì. Saggezza. E dunque lei, quando è uscita questa rivista, ha trovato proprio un luogo in cui scrivere e in cui scambiare a proposito delle sue idee con altre. Sì, mettiamo un altro Feron, va? Ok. Infatti è una canzone molto calma. Quiet street in someone's town. On strangers' feet I'll mark my ground. I trace my circles round and round. I'm sworn to find me he. In a party scene and I just got loose. It's my devil's luck to be introduced to one who takes this shape like you. It unbinds me. Dressed in steel strings, and I don't have you. You wouldn't like the life, and I couldn't want you to. There's a secret in the solitude. As my love unfolds, I find it's often crude. I call you late, and my words intrude, and I falter. But the miles don't shrink by telephone. The crackling wire becomes our home. I tell you I'm okay alone, and then I wonder. I've got towns ahead and shows behind, and I won't be lost. I join my name on that solid line, though it always costs. It takes my time, and it fills my mind, and it feeds the ghost. Memories in the quiet heat. When our words were trim, our hope was neat. We said our purpose here was to be complete. But I want you. It's a woman's dream, this autonomy, where the lines connect and the point stays free. We said passion as an open sea would only haunt you. I was the last cat Eccoci. Sì, una bella canzone di amore, cioè, che raccontava la longue distance. D'amore a lunga distanza, perché lei viaggiava con i suoi canzoni, i suoi concerti, e dunque la sua amante stava lontana, e dunque ogni volta, cioè, diceva: io avrei voluto ritrovarti in ogni città, ma volere non ti faceva apparire. Allora, un altro argomento, cioè, enorme, che comunque arriva a un certo punto è ok, separatismo fino a che? Fino a che e perché e quando? E si delimita un po' quelle che hanno scelto di separarsi quasi del mondo per vivere in comunità di donne e di lesbiche, e quelle che dicono: cioè, io avevo bisogno di rimanere in città perché è lì che dovevo lottare, e comunque continuavo a creare, ma a creare dentro anche il mondo in cui vivevo, no? Oui, il y avait beaucoup de façons de vivre. C'era molte modi di vivere. Oui, c'est intéressant de voir comment chacune se situe par rapport... J'ai voulu parler du séparatisme parce que pour moi, c'était important de créer des communautés où on pourrait vraiment approfondir nos idées, notre art, nos... Attends, si. Commence par la fin. Sì, ho voluto parlare del separatismo perché comunque era molto importante per me di questa, la creazione di questi spazi in cui avremmo potuto e potevamo approfondire in fondo le cose che volevamo vivere. Mais il y avait beaucoup de discussions sur être séparatiste ou non séparatiste pouvait vouloir dire se séparer des hommes, du monde des hommes, du monde ordinaire. C'erano tante discussioni perché essere séparatiste poteva voler dire diverse cose. Per esempio, poteva dire: ok, mi separo del mondo, mi separo del mondo dei uomini. Et ça pouvait aussi être se séparer des féministes pour certaines lesbiennes. Per alcune lesbiche significava separarsi delle femministe. Pour se concentrer uniquement sur les lesbiennes. Per concentrarsi unicamente sulle lesbiche. Puis dans les séparatistes, il y avait, bon, il y a Louise Turcotte qui parle à un moment donné que elle. Elle voulait être séparatiste, elle avait besoin du séparatisme, mais que c'était plus une stratégie qu'une fin en soi. Per esempio, c'è Louise Turcotte che nel film parla e dice che lei è separatista, ma è più una strategia, non una fine per lei. Parce que ce qu'elle voulait ultimement, c'est changer le monde, tout le monde. Perché alla fine, ultimamente, la cosa che voleva e che vuole, perché vuole ancora Louise, è di cambiare il mondo, ma il mondo per tutti. Tandis que moi, j'y crois pas trop, puis j'aime bien l'idée du séparatisme comme une fin en soi. Invece io non è che ci credo così tanto e mi piace l'idea del separatismo come una fine. Come un fine. Come un fine. Fine, un obiettivo. Mais ça n'existe plus maintenant beaucoup. Ma non esiste molto, non è che c'è molte possibilità ancora adesso. Puis il y a aussi des femmes qui étaient trop, comme dans le film, une autre qui parle de qu'elle ne voulait pas être une séparatiste parce qu'elle avait un petit fils qu'elle aimait beaucoup. Alors c'était toujours des négociations. Poi c'è per esempio un'altra donna nel film che dice che lei questa cosa di separatismo non gli andava così tanto perché lei aveva un nipote e dunque, cioè, comunque c'erano tante discussioni intorno a questo. Puis dans le film aussi, il y a Jackie Anderson qui parle du séparatiste, qui l'explique très bien pourquoi elle l'était, mais elle dit aussi que beaucoup de femmes noires considéraient le séparatisme comme une forme de racisme parce qu'il y avait juste les blanches privilégiées qui pouvaient se permettre d'être si libérées. C'è per esempio anche nel film c'è Jackie Anderson che racconta bene, e dunque lei è separatista e spiega bene perché non mi piace gli uomini, non mi piace che fanno gli uomini alle donne, lo spiega bene, ma spiega anche come il separatismo, e talvolta è anche visto come una cosa razzista, che solo le donne, le lesbiche bianche, se lo poteva, un privilegio di bianche che solo loro se lo potevano permettere. Alors, c'est ça que j'ai voulu montrer, qu'il y avait beaucoup de points de vue différents. Et questo ho voluto farlo vedere, che c'erano tanti punti di vista differenti. Posso mandare un'altra canzone? Mais oui. Allora, io questo l'ho apportato dal Festival di Michigan. A proposito. Di festival. È un reggae. Il gruppo si chiama Women Are Nothing. Yes, I'm me, man. Originally luscious, step on the case again. Sweet like lollipop, nice like soda pop, tastes like popsicle. Now come! Hardly believe it when I heard the news today. Say what? I had to come and get straight from you. You said you were leaving, so I gave myself your man away. Say what? I look up on your face, I see it's true. Shout out, not watch no faces. So tell me all about it. Tell me about the plans you're making. Me not make no plans. Tell me before. Jamaica, from sweet Toronto, yes, it's sweet, nice, taste, smell, Come on, girl, beauty queen, I can be a princess. Body nice in a short pants and sexy dress. Home, me keep fit, exercise, but sweat. Living as a woman in a live careless. Man, a dream about me and I wake up with. We fantasize ever, let the picture now me burn. You are fresh, you're not here, not yet. And listen to me now and listen to me clear. The one Frisco Banton call me off ear. Tell me about him, want him share. One start up my car and put it in a gear. Right, you know me gun on the front ear. This me want all the people them be here. Want him share. One start up my car and put it in a gear. Sister, who's putting it down on the crowded list? REX, I beat the rowdiest and all the shit. Yes, here and this, clear the place. Before I blow your trippy NASA's way up in the sky. My style like a blink is spreading out like a hyacinth. Quick to click the deal, steal the thrill, make a lyrical meal, straight down into the hill. And I've never been arrested for nothing corrupted. Personally, God gave me game and tactics. Lyrical addiction, next time I'm plagued. Dragging from the north to the heart of the lady lashes, lashes. I mean him so. Lashes, lashes. Sucker Roma say so. Lashes, lashes. Born in Jamaica. Lashes, lashes. From sweet Toronto. Body man I have ego. Them a hold on for me. Me have to say boy let go. Over me body man I have ego. Them a hold on for me. Me have to say boy let go. Lashes, lashes. siamo arrivate alla fine di questa trasmissione. Volevo fare due piccole domande a Miriam. Una cosa che molto, cioè, perché il film è molto, come si dice, fitto, no? Denso, sì, ci sono tantissime cose, tantissimi argomenti, tantissime storie di vita, tantissime e anche tantissime foto, archivio. E questa documentazione, perché ci sono, no, dalle manifestazioni, dalle coperte di libri, fanzine, immagini di repertorio. Fotografie. Dove est-ce que j'ai trouvé les archives? Oui. Dove hai trovato? Beaucoup c'était de moi. En majorité, c'est des photos que j'avais prises ou j'ai retrouvé des choses incroyables que je savais même pas que j'avais. Tante sono delle cose che avevo, ho ritrovato tantissime cose che non mi ricordavo neanche averle. Mais aussi j'ai eu la chance d'avoir des photos de Jeb, par exemple pour les photos de juives, de manifs et de pancartes. Des belles photos. Jeb est très connu comme photographe aux États-Unis, lesbienne. Ho anche avuto la fortuna di avere tantissime, alcune foto di Jeb, che è una fotografa molto conosciuta negli Stati Uniti, per esempio le foto delle ebrei, le foto delle manifestazioni. E aussi au Québec, il y a Suzanne et Diane qui filmaient beaucoup le mouvement des lesbiennes. Alors il y a une marche des années 76 avec lesbiennes dans la rue. E anche per esempio in Québec c'è anche Diane e Suzanne. E Suzanne che filmavano tantissime, per esempio c'è questo film su una manifestazione del 76 in cui si sentono 76 in cui, cioè, si sente lesbiche in strada, lesbiche in strada, in piazza. Puis aussi j'ai réussi à trouver des photos de Ruth Mountain Grove, qui aussi prenait beaucoup beaucoup de photos, a fait des magazines de photos, qui a 87 ans maintenant. J'ai eu le droit d'utiliser 30 de ces photos pour un prix dérisoire. Anche ho avuto anche la fortuna di per un prezzo veramente piccolo, cioè le foto di Ruth Undergrove, Mountain Grove, che vabbè, lei ha fatto anche tantissime foto delle riviste di foto e sono belle. Allora parfois j'ai cherché longtemps des photos pour finalement demander à la femme du film qui me trouvait des photos, que je cherchais des butch des années 50 à Miami qui avaient une relation avec des prostituées. Puis j'ai cherché partout dans les archives gays et lesbiennes aux États-Unis. Je trouvais rien. E per esempio ho anche trovato delle foto che ho cercato per tantissimo tempo, per esempio queste butch degli anni 50 che avevano delle prostitute a Miami, e ho cercato negli archivi gay e lesbico dappertutto. E finalmente j'ai demandé à une amie qui a écrit à Julia, qui est la première à qui j'aurais dû le demander, qui m'a envoyé sa photo d'une relation qu'elle avait eue dans les années. E finalmente l'ho chiesto a un'amica, che l'ha chiesto a Giulia, e infatti avrei dovuto subito andare da Giulia, perché lei ha mandato una foto di lei, visto che lei aveva questo tipo di relazione a quel momento là. Ma je voulais pas lui demander parce qu'elle avait été malade, il y avait des bonnes raisons. Ma vabbè, non l'avevo fatto perché sapevo che stava malata, e questo. Alors, mais les archives, ça a été un peu un cauchemar pour des périodes. Mais les archives, sono stati proprio un incubo per alcuni periodi. Facciamo veloce adesso. La cosa, cioè, c'è molto amore in questo film. Ma oui, faut parler de l'amour. Sì, perché dobbiamo parlare d'amore. Finiamo con, non lo so se me, vuoi dire la traduzione prima o mando il, c'è il piccolo pezzo del film che abbiamo scelto per concludere questa trasmissione? Mandiamolo. Mandiamolo. Most embodied revolution to ever take place on the planet. I mean, even if we weren't lovers, we were all kind of in love with each other. We were in love with ideas, and we were in love with what was possible between women and in the world because of what happened between women. There were just no separations. We were the original deconstructionists. We were taking everything apart, and we were seeing how everything could be radically different, because everything was radically different in the way we were living. We were on a high all the time. And don't ever let them tell you there was no sex, because there was sex everywhere. Penso che sia stata la rivoluzione più incarnata che sia mai avvenuta sul pianeta. Anche se non eravamo amanti, eravamo in qualche modo innamorate, fra di noi e con le idee e con ciò che era possibile, fra le donne e nel mondo, grazie a quello che accadeva fra le donne. Non c'era separazione, eravamo le decostruzioniste originarie, questionavamo tutto, vedevamo come tutto poteva essere radicalmente diverso, perché tutto era radicalmente diverso nel mondo in cui vivevamo. Eravamo sovreccitate tutto il tempo, e non lasciate che vi dicano che non c'era sesso, c'era sesso ovunque. Bella rivoluzione. Vogliamo concludere dicendo che noi abbiamo una copia del DVD che, per chi vorrebbe proiettarlo a Roma o in Italia, con l'aiuto di Some Perfect Cake, che ci ha dato i sottotitoli, cioè, la possiamo, vabbè, poi si vede un po' come si fa. Sì, dunque, però potete contattarci senz'altro, certo, via mail mfla@ondarossa.info. Potete anche vedere una piccola anteprima, un trailer di questo bel film nel sito www.lesbiana-alto-film.com. Ringraziamo Miriam per essere venuta, anche se stanca. Mi piace molto, sono stata contenta. E vabbè, grazie a tutte. Grazie. Si continua. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao. My mama was a waitress. My daddy a truck driver. The thing that kept their power from them slowed me down a while. I remember the morning. It was the closing of my youth, when I said goodbye to no one, and in that way faced my truth. And they walk along the river, and the rain coming down, and a girl on the road. There's a rhythm to the highway, to match the rhythm of your fears. My shopping bag possessions scattered with my splattered tears. A string of nights and truck stops, in darkness and in lies, and a man they all call Tiger Boy.